Comunicato. Denuncia del presidente dell'Ordine e della Lombardia attesa per i pareri del Consiglio di Stato sul decreto Cinquini per la firma dei Ciampi e la loggia all'esame del Quirinale un tempo infinito. Attorno al decreto sui A della loggia ci fa chiarezza in linea con la Corte Penale sulle competenze dello Stato giorni è tema. Abruzzo ha dichiarato e sono sotto adesso. Forze, forze di sinistra, oggettivamente alleate, il congiornano contro elementi dell'Europa, con la direttiva Zapata, ha riconosciuto il ordine italiano. Torbido e pesante, in atto un nuovo scontro attorno al mondo professionale. Diranno 5 milioni di voti che legano contro i colori, ci sono impegnati oggi a battaglia, una battaglia di retroguardia oppure in una battaglia ostile. E un scelta felice sente destro per non dare viva battaglia. Stato unitario prana contro l'ambasciatore del decreto e non bisogna di me cantare ce n'è. Governo tenta di cancellare il clima trovato, la regione del custodi del separo della nazione. Rimarranno già i pomodori del giorno per l'assemblea del personale. Niente più godo allo sportello, scarica la macchina, la modestità informale. Corsi di pensamento, dispensa e disciplinare l'esame di Stato. La professione è riconosciuta a livello comunitario. La spinta adesiva impressa la Lombardia siamo più libere dopo anni e cari paterni animati dei genitori.